Mio cugino ruba, spaccia, si droga e frega. È sempre stato gentile come una motosega. Picchiava tutti a scuola, faceva sempre sega. Era il capobanda della peggior congrega. Picchiava sempre piccoli perché era più forte. Le sue idee di giustizia erano un po' contorte. Quando lo beccavano incolpava la sorte. Con chi lo voleva buono lui ce l'aveva a morte. Rubava caramelle, mi pagava per star zitto. Diceva che ogni cosa si risolve col conflitto. Mi sorrideva sempre anche se era sconfitto. Diceva che è così che doveva fare un dritto. Mio cugino, sì che gli voglio bene. Però è un gran bastardo ed ognuno ne conviene. No, non è stato facile, ma quando è esagerato mi sono fatto forza, sì, io l'ho denunciato. Mio cugino, sì che gli voglio bene. Però è un gran bastardo ed ognuno ne conviene. No, non è stato per niente facile, ma quando ho esagerato mi sono fatto un po' forza, sì, ed l'ho denunciato. Mio cugino, ammettiamolo, l'abbiamo avuto tutti, ed è duro ogni giorno fare conti coi suoi frutti. Dalla complice omertà che ci chiede il birichino, si sfugge sempre male se la chiede chi è vicino. Mio cugino, sì che gli voglio bene, però è un gran bastardo ed ognuno ne conviene. No, non è stato facile, ma quando è esagerato mi sono fatto forza, sì, io l'ho denunciato. Mio cugino, sì che gli voglio bene, però è un gran bastardo ed ognuno ne conviene. No, non è stato facile, ma quando è esagerato mi sono fatto forza, sì, io l'ho denunciato tutti e certo sì, lo rifarei. Io voglio un mondo nuovo con un po' di fair play. L'ho denunciato tutti, certo sì, lo rifarei. Io voglio un